go praying. How I wish it spoken up. Or we can carry all the weight of love. Lei sapeva del silenzio che sarebbe venuto poi, per questo gli chiedeva a bassa la voce. Pensava che se le parole si fossero fatte simili al silenzio, la loro assenza sarebbe stata più lieve, come un bisbigliare oltre una porta chiusa o come qualcuno che senti muoversi nella stanza accanto. «Cambia tono», diceva a lei, lui che non capiva e confuso rallentava il passo, cercava un riparo da quell'estate improvvisa, dall'assalto dell'inatteso. Ma fu in quella luce estinta che cominciò a sentire che le cose a volte implodono senza implorare altro e tornano in se stesse e stanno affine al silenzio. Così cedette e abbassò la voce, tanto che tacque. Compiuto è l'anno, invertita la rotta, ed è risacca che spaggina il tempo, è cura di un dolore contento, è lenimento tardivo di un ritroso navigare, e scoramento dell'onda che torna in alto mare. Mimetizzata nelle quattro sillabe del mio nome, oscurata la luce, sospesa la grazia, tento una strenua difesa dal suo sguardo manicheo e imito me stessa, ma senza ironia, piuttosto come un insetto imita una foglia. Avrei voluto una bugia o una verità inventata che desse pace e un volto accessibile a quanto si negava ribelle nelle sue parole senza cielo né sguardo. Parole dette col fiato sospeso su una verità vegliata da un Dio vile, un Dio da cui non avere nulla da temere e nulla da sperare. Chi può dirmi chi sono se lui non mi è più specchio? Se di coraggio perso è il suo guardarmi e di ritorni severi e di ritardi. Se nel suo sguardo disfatti vedo il tempo e me, me ridisegnata senza braccia. Eravamo sullo stesso treno in quel luglio accidioso, ma solo io tornavo. Lui, scontento, contro il paesaggio in nascita al di là del vetro, era il profilo in dissolvenza, al di qua del presente esondato su passato e futuro. Nel suo sguardo sconosciuto penava l'out-out imposto al mio ventre in festa. Sfatta l'emozione, mietuta fuori stagione dal concreto della vita in cui manco, dice, e non s'avvede che manca lui alla leggerezza e s'autunna vinto da uno spleen senza gloria. Smise d'essermi amante il suo sguardo quando la lucentezza caduca dell'addio sorprese i cortili e le voci che ne fuggivano. Le cose non capitano, accadono. Capita forse che io alzi gli occhi dal foglio e veda nel cielo cisposo un uccello passare. Capita che mi cada di mano un bicchiere, che dimentichi un nome, perda l'ombrello, ma accade che io, china sul foglio, veda il mimo alle sue spalle mimare il gesto di chi resta, ma sono in fuga le mani, due lepri bianche, braccate dalla loro stessa paura. Trasalgo, addio bestemmiato su una panchina, con la vernice bianca, e sento il raccapriccio del legno, vedo l'immobilità attonita delle altalene, metronomi dell'infanzia, che lode al cielo e alla terra, e carezza al tempo perché se ne stia buono, a godersi una zuffa di passeri e piccioni, e lasci ai pony, giro dopo giro, la misura del sacro. È un presente puro, mondato dell'attesa, un mare senza risacca, un sorriso nello specchio, un vecchio amico. Un presente pacato, privo dell'ansia dell'attimo fungente, un presente sativo. A Damiano. Ecco lo splendore del primo giorno, dopo il buio serrato nel grido, di tutta la mia vita, radunata là per accoglierti. Ecco l'attimo del sia la luce, nell'aprirsi dei tuoi occhi, nel dilatarsi dei polmoni al passaggio dall'acqua all'aria e il pianto inconsolabile dello strappo, dopo milioni di anni, impreparati ancora al nascere, così come al morire. Roveggenza, possibile solo nell'infanzia, se Arianna risponde no, la vita tua punge. A me che le dico sei la vita mia, e pungo davvero, io, adulta, o punge qualcosa dentro me, se lei mi sente attraversata da un sentiero dumoso. Il cercarmi dentro una poesia, in redenzione di tutte le offese del mondo, o solo un luogo di me stessa, dove si ristori la fatica di vivere molteplici esistenze, dove redimere una vita spezzettata in piccoli orizzonti, mentre la volevo lungimirante e ammirevole, la vedo simile a una pozzanghera in cui si riflette il cielo col suo passaggio di nuvole e di ali, ma più cielo del cielo, quando nella sua acqua gli uccelli vengono a dissetarsi. Cercare la giusta distanza tra noi e le cose da fare, e quelle che ci fanno e ci disfano, quelle che confondono le nostre fisionomie di cartone rosicchiato dai topi. Ma ora c'è l'incipiente autunno a scucire il cielo e le sue fibre mistiche per rammendare il nostro tempo di passaggio da una sponda all'altra dell'esistenza. Mi manca la poesia nel giorno sceso in cenere, a forzare la veglia laica, la veglia stanca e irragionevole, al Dio liquefatto nell'inchiostro, fatto preghiera di cose andate e presto ritornate a nuovo uso, come la pioggia o la parola accolta in limine all'avvenimento che la dice. Si somigliano il silenzio e il tempo la domenica mattina, quando i gerani stanno pazienti contro il luccichio dei vetri, dove il senso dell'umano ristagna e il concistoro di suoni e rumori diviene un'unica voce. Non molto di più mi è dato di vedere e udire da questo esiguo spazio da cui, tuttavia, una verità senza orme circoscrive l'immenso. Mi coglie di sorpresa il lento ritirarsi delle cose, alla strenua avanzata degli anni, il perdere di sapienza del corpo, per cui preparo un'intimità più attenta che riconcili i gesti con l'assenza, e tengo per mano la fede mentre negozia la pace con la realtà dei fatti. È fatica attendere, sperare, vivere strappati da se stessi, stare come vino nuovo in otri vecchie, col timore che il legno ceda e ci si versi in terra, e la terra ci ingoi e il tempo faccia meno di noi. Cari ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Alma, e in particolare della Terra Sonora Cuore di Poesia, questi erano alcuni testi inseriti nel libro Diario Inverso di Manni Editori, che è stato scritto da Luciana Argentino, che è stata la nostra ospite in questo appuntamento, nel quale abbiamo parlato con lei, nel quale l'abbiamo conosciuta nella prima parte, poi in questa seconda parte vi abbiamo dato l'emozione delle sue poesie e di quello che ha inserito appunto in questo diario inverso. Bene, con questo noi abbiamo chiuso questo nostro appuntamento insieme, questa nostra puntata della Terra Sonora Cuore di Poesia. Da parte di Massimo De Martino è davvero tutto, e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su Radio Alma, sempre con La Tela Sonora, Cuore di Poesia. A presto. Matters less than time. My thoughts are so Because